Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Franco Piantanide, autore di questa puntata, di questa trasmissione, Roby Scaltritti in regia. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666, se volete scriverci un messaggio, oppure potete seguirci in diretta su Twitter, @ tutti convocati. Oggi proviamo anche a voltare pagina dopo il martedì nero, martedì 17, con tutta quella serie di notizie di cui abbiamo parlato ampiamente ieri. Però se volete, noi siamo qui per raccogliere i vostri pareri. Anche il calcio, mi pare di poter dire, sta cercando di voltare pagina, o almeno sta facendo fortino. Sentite il presidente della Federcalcio, Abete, ieri parlando dell'inchiesta di Cremona. Grande considerazione e rispetto nei confronti di persone che al momento risulta soltanto che siano indagate, una persona come Rino Gattuso che tutti quanti stimiamo per le sue qualità e per i suoi valori. Al momento ci sono 4 arresti di persone, onestamente, diciamo, che non risultano tesserate per la nostra federazione, che diciamo, i cui nomi non ricordano nulla che le colleghi a momenti o a situazioni di ruolo eclatanti. Oggi Marco Mensurati su Repubblica ricorda i numeri di 2 anni e mezzo di inchiesta, perché non è vero che non è successo nulla in questi 2 anni e mezzo di inchiesta, cioè dai primi arresti. Ad esempio, i processi sportivi, dalle carte della procura di Cremona, scrive la Repubblica, la giustizia sportiva ha emesso 197 sentenze, 144 nei confronti di tesserati e 53 nei confronti dei club. Oppure la giustizia penale, la giustizia ordinaria, a Bari ad esempio in 5 hanno patteggiato, altri hanno chiesto di poterlo fare a Cremona. Ho la sensazione che il calcio stia tentando di autoassolversi. Ieri abbiamo parlato molto di Gattuso, su Gattuso abbiamo detto che cosa la pensiamo. Sentiamo Gagliani su Gattuso e Brocchi. Io sono sicuro dell'onestà di Rino, di Christian, eccetera, non ho letto gli atti, eccetera, eccetera, l'hanno fatto gli avvocati, queste cose qui, quindi non posso commentare cose che non conosco. Conoscendo Rino da tanti anni, Brocchi è cresciuto da noi, poi è andato alla Lazio, adesso è ritornato da noi. Io sono sicuro che loro sono 2 bravissimi ragazzi e quindi avranno sempre la nostra vicinanza morale, ma ripeto, non ho letto niente, quindi non vorrei far arrabbiare nessun magistrato, nessun PM, parlo solo della mia esperienza personale con questi ragazzi. Per tanti anni hanno sempre dimostrato di essere impeccabili e inappuntabili, e io mi auguro che questo sia poi il finale della storia. Intanto questo pomeriggio a Cremona ci saranno gli altri 2 interrogatori, quelli di Mister X e Mister Y. Cercheremo di capire se emerge qualcosa. Altre notizie che vengono dal mondo del calcio, notizie sparse. Parliamo anche del mundialito, di quello che è successo ieri a Casablanca con l'incredibile eliminazione dell'Atletico Mineiro di Ronaldinho. E lo faremo andando proprio a Casablanca con il grande Paolo Condò. Altre notizie, dicevo, che arrivano invece dal mondo del calcio italiano. Vi ricordate la vicenda del Pisa, dei ragazzini, di Alessandro Birindelli? Birindelli che ha ritirato domenica la squadra dopo una lite in tribuna tra genitori. Ebbene, è arrivata la sentenza del giudice sportivo giovanile, partita persa, 1 punto di penalizzazione e 100 euro di multa. Questo per il Pisa. Birindelli aveva ritirato la squadra, i suoi ragazzini, perché sugli spalti i genitori stavano dando prova pessima di sé. Siamo in attesa anche dell'esito del ricorso di Inter e Roma contro le chiusure delle curve. Domenica potremo avere un derby senza curva nord, senza tifosi dell'Inter. Ieri si è schierato anche il Milan, ha parlato Gagliani, sentiamolo. Ma no, io dico una cosa, oggi ho parlato con Fassone, ho parlato tutto quello che noi possiamo fare, se possiamo contribuire a far sì che venga che venga postergata questo divieto di tifosi, ma non ha senso, sono delle ferite veramente. Quando entri in uno stadio e vedi un settore vuoto è una ferita veramente, quindi non lo so, adesso non ricominciamo, ci rinneschiamo nelle polemiche. Io continuo a pensare che il razzismo sia una cosa, il territoriale ce lo siamo inventati noi in Italia, adesso lo so che direte di no, ma è così, assolutamente è così. Questa forma di discriminazione territoriale è un qualche cosa che nulla ha a che vedere con il razzismo. Non so perché è stata introdotta. Postergata, da segnare, postergata, ha detto Galliani. Comunque arriva domani il verdetto sul ricorso. Traffico. Tutti convocati. 800 24 00 24. Vittorio da Prato, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio, buonasera. Prego. Grazie di avermi convocato. Basta che abbassi la radio, dica. Allora, io vorrei esprimere un concetto di fondo. Sì. Al di là dei personaggi che sono stati coinvolti in questa inchiesta, sarebbe l'ora di multare anche i rappresentanti della magistratura, perché è l'ora di fila che abbiamo una categoria che quando sbaglia non paga. Questi signori ci hanno rotto le palle. Sì, ma Vittorio, è tutto da dimostrare che abbiano sbagliato. Noi ieri abbiamo parlato, abbiamo detto quello che ne pensiamo, però qui siamo all'inizio di un'inchiesta. Ripeto, io i numeri glieli ho riletti, sono numeri che oggi pubblica La Repubblica. Non mi sembra che si possa parlare di un fallimento. Poi che esista probabilmente qualche esagerazione dal punto di vista mediatico, noi lo abbiamo sottolineato ieri. Intanto sapete chi è arrivato. Ciao Pier. Ciao, come va? Bene. Adesso dire che i magistrati hanno sbagliato, siamo nemmeno all'inizio. No. Poi diciamo, le sentenze, le indagini non è che le possiamo giudicare prima. No. Si può semmai giudicare l'impatto mediatico, insomma, no? Il fatto che magari certi nomi, il discorso che facciamo ormai da quando è uscita questa notizia, no? Dal fatto dobbiamo usare la prudenza che si deve usare, ovviamente, perché siamo di fronte all'inizio di un'indagine e quindi fino a prova contraria tutti gli indagati sono innocenti. Tutto io, qui, io però ti faccio, poi da qui ti attaccare i magistrati mi sembra assurdo. No, io ti faccio un bel test, perché in realtà io oggi avrei voluto parlare di altro invece che restare ancora su questi temi, anche se poi ci proveremo anche in maniera seria. Chi è l'arbitro di Milan-Inter? Un bel test. Mazzoleni. Non va bene agli interisti. No, non va bene agli interisti. Chi sarà l'arbitro di Juve-Roma il 5 gennaio? Perché a questo punto tutti stanno facendo i calcoli. Orzato. No, Rizzoli. Al 100%. Io scommetto su Rizzoli. Quante ore dormiva per notte Seedorf per studiare e prendere il patentino da allenatori? Non dormiva. 5 ore. Ma non dormiva. Lo dice per sembrare umano, ma non dormiva. Sì, quante chance ha di essere il prossimo allenatore del Milan? Beh, secondo me ne ha molte, soprattutto se dovesse prevalere la linea Berlusconi, Barbara e Silvio. Insomma, sappiamo che è un pallino di Silvio Berlusconi, molto, molto importante, che Berlusconi da sempre ama queste figure di grande carisma, di grande fascino anche mediatico. Quindi, insomma, secondo me ha il physique du roi, come dicono al Milan, per poter diventare l'allenatore. Ieri hanno detto che invece Allegri ha il 100% di possibilità di mangiare il panettone. Ci mancherebbe. Manca poco. Settimana prossima. Era già arrivato. Assolutamente. Mi auguro, qui lo stanno mangiando, fra l'altro. Qui lo stanno mangiando. Lo svolgimento alla festa. Qui fuori dal vetro. Noi invece siamo confinati qui dentro. Tu sai quando è nata Barbara Berlusconi? È nata lo stesso giorno di Galliani, il 30 luglio. Sì, quindi segno grande del leone. Me lo sono andato a leggere, sotto segno del leone. Quindi andranno d'accordo, perché ha detto Galliani che sono nati nello stesso giorno. Sì. Tu lo sai qual è il colore preferito del leone? Ma è veramente un test difficile. Il rosso sarà. No, è il giallo delle cravatte di Galliani. Il giorno preferito è la domenica. Sì. E quindi, siccome i milanisti. Ma domenica non si gioca più. Come no? Domenica c'è il derby. Siccome i milanisti sono. Secondo te sono scaramantici? Tutti sono scaramantici. Scaramanzia conta l'80-90% nel calcio, non di più. Allora, secondo i segni zodiacali, il giorno preferito è la domenica. Quindi domenica il derby lo vince bisogna vedere quanti giocatori dell'Inter sono andati sotto il segno del leone. No, sì. Però il giorno favorevole è domenica, quindi il derby lo vince il Milan. Si vede che ho un rapporto con gli oroscopi complicato. Anch'io, ma ho studiato. Persone famose nate sotto il segno del leone, insieme a Barbara Berlusconi e Adriano Galliani: Madonna, Napoleone, Usain Bolt, Gianni Rivera, Marco Materazzi, Fidel Castro, sì. Gerry Scotti. Dalla Fidel Castro a Gerry Scotti fa. Qui possiamo fermarci. No, adesso, a parte gli scherzi, noi cambiamo argomento dopo. Anzi, magari sai che cosa facciamo? Andiamo in fretta in Marocco per parlare di quello che è successo ieri da Paolino Condò, perché ieri c'è stata questa grande sorpresa. Ho visto delle scene bellissime, i giocatori africani che hanno spogliato letteralmente Ronaldinho alla fine della partita. Non so se hai visto, un idolo. Ho visto, ed è un remake di quello che era avvenuto 3 anni fa, 2010, quando c'era l'Inter con l'eliminazione del Mazembe che eliminò l'Internacional de Porto Alegre. Quindi, insomma, a volte non c'è da discutere fra prima e seconda, soltanto questa, la vecchia norma della Coppa Intercontinentale non si riesce più a ristabilire, perché in realtà questa benedetta Coppa del Nonno poi vede anche le africane riuscire almeno ad arrivare in finale. Di più credo che sarà difficile. Sì, c'è un amico che dice che anche Mussolini era sotto il segno del leone, e ci dà degli ignoranti, ma ce ne sono anche tanti altri. Luca da Genova. Luca da Genova. Sì, buongiorno, auguri innanzitutto. Buongiorno a lei, buongiorno. Prego. Volevo soltanto dire un paio di cose. La prima, è un piacere essere stato convocato da voi. Ho una stima e mi piace un sacco la trasmissione, e un grande affetto nei confronti di Pardo, perché conduce sempre i suoi programmi in maniera molto frizzante, e mi piace un sacco. Grazie. Seconda cosa, io sono un tifoso juventino, sono un gobbo di quelli belli, duri. De Notre Dame, rispetto per Gattuso, avversario leale, guai a chi lo tocca, perché sicuramente non avrà fatto nulla di quello che gli viene imputato. Terza cosa, argomento per me importante in quanto sono papà e un bimbo di 6 anni e mezzo, è ridicolo punire la squadra di Birindelli. Bisognerebbe fargli un monumento, ragazzi, un monumento quello che ha fatto quel ragazzo lì. Altro che andare a punire i ragazzini, togliergli un punto, fargli 100 euro di multa, la barzelletta. Tanti auguri, vi ascolto per radio. Grazie Luca, ma purtroppo la giustizia sportiva è così. Poi alla fine è un organo burocratico e quindi si muove, ed è successo, lo abbiamo raccontato. C'è Paolino Condò. Ciao Paolo. Buongiorno a tutti, cosa è successo a Birindelli? Gli hanno dato partita persa, aveva ritirato la squadra perché i genitori litigavano in tribuna, squadra di ragazzini. Sì, sì, partita persa. Mi ero anche espresso su Twitter e avevo ricevuto, ovviamente con grandissimi complimenti a Birindelli, avevo ricevuto grandi consensi per questa presa di posizione, quindi sono scandalizzato come più di tutti per questo verdetto. Sì, non ti aveva letto evidentemente, caro Pierre, il giudice sportivo del campionato giovanile. Partita persa, un punto di penalizzazione, 100 euro di multa. Ma vedi, qui proprio siamo alla... Quando mi viene in mente De Gregori, cercavi giustizia ma trovasti la legge, perché insomma qui siamo veramente di fronte a un'applicazione talmente burocratica, talmente automatica delle regole, per cui si diventa ridicoli. Insomma, Birindelli ha fatto benissimo, ha fatto un gesto coraggioso e siamo tutti d'accordo. Diamogli, facciamo la colletta, diamogli 100 euro alla squadra. E allora, i primi 50 li mette Paolo, non li possiamo mettere. I primi 50 li mette Paolo Condò. Partecipo assolutamente. I secondi 50 li mette Pierluigi Pardo, e quindi la colletta è finita. Caro Paolo Condò, abbiamo un test anche per te. Allora, quanti giocatori del Raja Casablanca conoscevano Ronaldinho prima di ieri sera? Conoscevano di persona? Di persona probabilmente nessuno, direi che l'aspetto più clamoroso è che Ronaldinho non conosceva e avrebbe dovuto alcuni giocatori del Raja Casablanca, perché la figura che hanno fatto è stata, diciamo che ad alti livelli non ho mai visto una squadra sudamericana così scarsa, così priva di desiderio di giocare, di vincere. È stata una vergogna, veramente una vergogna. Quanti ne conosce secondo te adesso? Quanti ne conosce Ronaldinho adesso? Beh, probabilmente non li riconosce, perché gli passavano accanto così veloci che le facce non gli si imprimevano. E comunque noi parliamo di Ronaldinho. Ronaldinho gioca da fermo, ma almeno ancora il piede per mettere dentro una bella punizione. I suoi 10 compagni, che magari essendo compagni di Ronaldinho dovrebbero faticare un po' di più anche per il loro leader, sono più colpevoli del dentone. E comunque attenzione, perché negli ultimi due mondiali 7 semifinaliste su 8 sono state europee. Io ho la sensazione che questa cosa di mettere insieme, è vero, sì, l'anno scorso il Corinthians ha vinto col Chelsea, però quella era una partita secca. A me sembra che in assoluto ci sia fra Europa e Sud America una distanza che sta diventando incolmabile. Chiaramente il mondiale in Brasile invece è un'occasione, perché il Brasile è una delle favorite in maniera assoluta, giocherà in casa, anche una squadra che arriverà pronta, insomma. Però la mia sensazione è che negli ultimi anni il fatto che il grande calcio poi sia qui, da questa parte dell'oceano, con i grandi campionati, con il grande business, insomma, abbia fatto sì che ci sia stata una crescita molto evidente dell'Europa a scapito del Sud America. C'è qualche segnale, Paolo, sì, da interpretare? No, ma ha ragione Pier, sicuramente, ma anche perché poi appena un sudamericano è appena decente viene subito portato non solo in Europa. Tenete presente che il Brasile esporta ogni anno più di mille giocatori, perché i brasiliani comunque sono sempre utili, voglio dire, a tutti i livelli. Se tu prendi un brasiliano per la Serie C vietnamita, è un brasiliano che gioca come noi, però nella Serie C vietnamita fa la differenza. Quindi li prendo tutti quanti. Guardavo ieri, di fronte a questo scempio che i marocchini hanno fatto dell'Atletico Mineiro, sono andato a guardare, voi sapete, sui referti ci sono anche le date di nascita, e in effetti era una squadra vecchia di giocatori o rientrati in patria dall'esperienza europea o in qualche altro continente, oppure quelli così scarsi che non erano riusciti ad andare in un altro continente. Ma del resto, se voi pensate, con tutto il rispetto per il probabile futuro allenatore del Milan, che Clarence Seedorf è ancora uno dei migliori giocatori del campionato brasiliano, è evidente che il dinamismo è una cosa che è sconosciuta. Non pervenuto. Quante possibilità ha il Raja Casablanca di fare una figura migliore del Mazembe del 2010 contro l'Inter? Ma guarda, è una possibilità legata, secondo me, alla voglia del Bayern di non infierire. Credo che finirà più o meno come quella partita lì, ecco. Ma il Bayern 4-0 era finita quella. Quella dell'Inter finirà come la semifinale con il Guangzhou. Loro, c'è un entusiasmo popolare qui che ve lo lascio immaginare. Sono rientrato in albergo alle 2 di notte dal casino che c'era ieri allo stadio e soprattutto fuori dallo stadio. Però insomma, i tedeschi sono un'altra cosa. Ma è la squadra più forte d'Europa e quindi del mondo, il Bayern? È la favorita per la Champions, secondo te? Beh, c'è sempre questo fatto, no? A volte le tradizioni sono durissime da rompere, che da quando esiste la Champions League nessuna squadra l'ha vinta per due volte consecutive. Io mi sarei giocato la casa sul fatto che il Barcellona dei tempi belli fosse la prima a riuscirci, non c'è riuscito neanche il Barcellona. E quindi mantengo questo, forse anche un po' scaramantica, questo mio pensiero che magari quest'anno il Real Madrid potrebbe, nel carletto nostro, potrebbe fare il colpo dopo molti anni che non ci riesce. Io sono sempre impressionato dalla rosa del Chelsea. Se comprasse un attaccante a gennaio, ogni tanto si parla di Falcao, diventerebbe ultra competitivo. Però sì, in generale è giusto ritenere il Bayern in questo momento la squadra più forte del mondo. Paolo Codotti, lasciamo con l'ultima domanda: quante ore hai dormito questa notte? Perché io, leggendo l'attacco meno, del tuo pezzo, mi sono preoccupato. Più o meno di Seedorf? No, ho visto che del Seedorf quante ne dorme? 5. Insomma, no, devo dire che secondo me mi ha svegliato il muezzin, che è sempre, certo, una cosa fantastica, devo dire. Certo. Però secondo me il muezzin li ha mandati a dormire, i tifosi della Raja, col suo primo gorgheggio di questa mattina, perché hanno fatto casino veramente. Ora ho visto una cosa che avevo visto soltanto in Sud America e che mi è piaciuta tantissimo, e cioè i pullman di tifosi, con i tifosi che salivano sul tetto, tenete presente che era tutto bloccato, salivano sul tetto e saltavano riducendo il tetto dell'autobus, potete immaginare in che maniera, ma il tutto con un'allegria popolare che sono che in tempi di forconi veramente regalerei un po' anche l'Italia. Sì. Non benissimo, ma fino a sabato lo possiamo sopportare. Lo puoi sopportare tu che sei lì. Grazie Paolo Condò. Assolutamente. Ciao Paolo. Un piacere. Ciao ragazzi. Abbiamo dimenticato Obama fra gli uomini nati sotto il segno del leone. Vedi che se tu parti il filone, dicono, poi non lo so, non ho controllato, se entri nel trip zodiacale non esci più. Ma a me era piaciuta la storia del giallo e della domenica. La domenica. 800 24 0024, ci fermiamo la borsa. Ma io purtroppo non sono tecnologico e non amo molto i social network. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Caro Pier del Leone sono. Ecco, quello volevo leggere. Antonio Conte, Prandelli e Letta. Sarà Enrico Letta. Sarà Enrico Letta, sì, immagino. Enrico. Mica Robetta, Fede d'Alessandria. Fa anche rima, è Letta, mica Robetta. Poi c'è chi dice che il colore non è il giallo, ma l'oro. A maggior ragione, Milan favorito per il derby. Vedi che le frontiere dell'astrologia, cioè abbiamo una quantità di astrologi all'ascolto, di gente, di numerologi, eh? È pieno di numerologi, c'è un gran numero di numerologi. E poi vabbè, c'è piccolo particolare, Mazembe era campione d'Africa, Raja Casablanca partecipa in quanto padrone di casa, sì, però insomma intanto in finale ci è arrivato. E convincendo, fra l'altro, come ci raccontava Condò. Sai che secondo me Pep Guardiola rosica all'idea di vincere contro gli africani una coppa che tra l'altro non è nemmeno del tutto sua, perché ovviamente discende dal triplete di Anches, che probabilmente passerà all'Albo d'Oro, ma certamente non resterà nella storia. Tre anni fa ero lì ad Abu Dhabi, stesso albergo dell'Inter, a seguirla, insomma, Merited Premium finale, eccetera, eccetera. Devo dire che l'eliminazione dell'Internacional, che sicuramente ha semplificato la finale, insomma, perché l'ha resa un pochino meno competitiva, però qualcosa toglieva, e questa cosa secondo me era avvertita anche da parte dei giocatori. Quindi poi, perché hai vinto, non ci mancherebbe altro, però insomma, proprio per il tipo di competizione, per la distanza almeno teorica, il blasone, chiaramente la squadra africana è pari a zero, insomma qualcosina toglie dal punto di vista della suggestione. Detto questo, poi insomma, se la vinci, sei campione del mondo e te lo meriti, anche perché vuol dire che hai vinto la Champions. Sì, Giancarlo da Torino, 800 24 00 24. Giancarlo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie per avermi convocato. Prego. Volevo portare una riflessione sul caso di Gattuso. Sì. Un figlio che gioca a calcio, con il quale abbiamo sempre parlato, commentando le notizie, che ne so, di Bonucci che gioca l'over, piuttosto che Masiello sa già il risultato, queste cose, no? E invece su Gattuso mi ha fatto una riflessione che mi ha fatto riflettere, mi ha detto: se è vero di Gattuso, è la fine del calcio. Nel senso di, quando gli ho chiesto ragione, mi ha detto: beh, pensa, Gattuso, campione del mondo, esempio di correttezza sul campo, uno che andava a battere con la testa contro un muro, se ha venduto le partite a lui vuol dire che proprio è la fine del calcio. È vero. Niente. E questo è il messaggio. È vero, Gattuso incarna su di sé tutta una serie di caratteristiche, di qualità vere o presunte, questo non lo sappiamo ovviamente, nel senso che poi bisogna, quella è una votazione che riguarda l'uomo e bisogna farla soltanto ovviamente conoscendolo molto bene, ma secondo me dall'esterno in assoluto Gattuso è un personaggio straordinario, perché rappresenta la qualità e la capacità dell'atleta di spingere i propri limiti oltre a dei livelli impensabili, di diventare la famosa classe operaia in paradiso, per sua stessa missione. Quindi è un giocatore migliore, è uno dei giocatori più migliorati della storia del calcio, è uno dei giocatori che proprio ti rappresenta il trionfo della volontà. E quindi sì, è vero, sarebbe ancora più amaro scoprire un suo coinvolgimento. Aveva anche la fortuna di dover correre per gente come Seedorf, Pirlo, che secondo me è anche un bel correre. Sì, sì, un bel correre, però certamente però lui ci ha messo avuto una bella immagine. E poi io sostengo che lui sia migliorato tecnicamente, cioè negli anni, dal punto di vista strettamente tecnico, Gattuso è un esempio di giocatore che è migliorato col tempo, che è riuscito sicuramente a crescere dal punto di vista proprio della qualità. Giuseppe da Venezia, buon pomeriggio. Sì, salve, buon pomeriggio. Prego. Sono di foto dell'Avellino, non so se l'ha detto. Sì, si è divertito ieri sera? Era difficile non divertirsi, perché diciamo che noi tifosi andiamo al di là della partita, e credo che ieri è stata la dimostrazione più grande, perché sentire una tifoseria avversaria che ti applaudisce dopo che hai fatto una sciarpata, diciamo, d'antologia, e che i telecronisti fermano la partita per dire sta succedendo qualcosa di incredibile nella curva dell'Avellino, e tutto questo in positivo, forse una delle poche volte che in una partita si parla più delle tifoserie in positivo che della partita stessa, che era una sorta, dopo mezz'ora, una sorta di amichevole, si può dire. Certo. Ecco. Beh, io posso soltanto confermare quello che avevo detto dopo Inter-Trapani. Poi lì era ancora più clamoroso perché il Trapani non ha comunque un passato in Serie A, cosa che invece ha l'Avellino negli anni Ottanta. Però è evidente che questo è qualcosa di eccezionale, nel senso che rappresenta veramente la quintessenza del tifo, rappresenta veramente l'emozione vissuta once a lifetime, direbbero gli inglesi, una volta nella vita, che non sai se ti ricapiterà una serata così. Per cui hanno fatto benissimo i telecronisti se hanno sottolineato questa scena. E quell'immagine è un'immagine bellissima che ci riporta al senso vero e profondo del tifo. Io, per me, tutte le volte, e succede spessissimo, che i tifosi si comportano bene, deve essere sottolineato, perché sennò poi se ne parla soltanto in negativo, quando giustamente, insomma, ci troviamo di fronte a episodi della cronaca nera. Ma in generale quello che si è visto ieri è bellissimo, così come i 5.000 tifosi del Trapani arrivati a San Siro per vivere una serata che forse non vivranno mai più, glielo auguriamo, ma non vivranno mai più nella loro vita. Poi chissà, l'Avellino magari in Serie A ci torna davvero. Ma magari anche il Trapani, per carità. Voglio dire, ma non lo so, però insomma, la bellezza del calcio è questa, no? C'è un pezzo del libro di Nick Corby nel quale si parla dei tifosi dei Wolves, che a metà degli anni 60 non avrebbero mai immaginato di vedere la loro squadra per 40 anni fuori da tutte le posizioni di vertice. Il calcio ha una sua variabilità, una sua, adesso magari un po' meno, perché ormai il calcio business degli ultimi anni fa sì che le grandi rimangano grandi. Sì, adesso si fa la classifica col fatturato è più o meno, capito, come nell'NBA, quindi è difficile immaginare che il Leeds United possa tornare a vincere la Champions League da qui a 5 anni, o il Nottingham Forest, anche squadre nobili ma che da un po' di tempo sono scomparse, e che il Manchester United o il Chelsea possano improvvisamente sparire, essere condannati a 20 anni di sofferenza. Questo non succederà più, insomma. Michele da Padova. Michele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buongiorno. Prego. Riferendomi al caso Birindelli, che mi ha sorpreso naturalmente, come è stato penso sorpreso qualsiasi persona dotata di buon senso, volevo portare la mia testimonianza, in quanto io sono un ex allenatore di una squadra di categoria, allenavo una squadra qui nella provincia di Padova dove abito, e in occasione di una partita tra l'altro importante, giocavamo contro la prima in classifica, dopo aver raccomandato ai miei giocatori di andare a letto presto la sera, di non strapazzarsi, di alzarsi presto la mattina, eccetera, eccetera, il giorno della partita sono andati a letto in 6/11 dei titolari alle 8 della mattina ubriacandosi. Bene, no? No, non benissimo. Ecco, perfetto. Cosa faccio? Quei 6 giocatori lì li metto in panchina, gioco quindi con 6 riserve negli 11 e perdo la partita per 3-1. Cosa fa la società? La mattina dopo mi esonera. Mi esonera perché non ho messo in campo la squadra ottimale, pur andando a letto alle 8 della mattina. Allora dico, con questi presupposti qui ci lamentiamo certo dei genitori, ma bisogna anche capire che insegnamento danno i dirigenti delle squadre, che segnali danno, perché credo che qui viga solo la regola del vincere a tutti i costi e a qualsiasi compromesso, anziché dare un insegnamento ai ragazzi. Io guardi, i ragazzi che allenavano erano tra i 19 e i 23 anni, e qualche segnale di buon esempio bisogna darlo. Sì. Invece non c'è dubbio, evidentemente non aveva fatto patti chiari con i suoi dirigenti. Ma però sì. Michele, Pier, e forse doveva dirglielo prima, guardate che è successa questa cosa, io non lo so, forse gliel'avrà anche detto. No, ma però lei ha fatto benissimo, per quanto pensiamo noi, lei ha fatto benissimo, come ha fatto benissimo Birindelli, e io credo che davvero questi 100 euro di multa Birindelli li possa far pagare col sorriso sulle labbra, perché comunque per 2 giorni sui giornali si è parlato di questo, e il messaggio che è passato, il messaggio che è stato lanciato è positivo. Però la stupidità, posso dire, l'ottusità, perché qui non è stupidità, qui proprio l'ottusità della giustizia sportiva in questo caso è veramente incredibile, perché non capire che quella, di fronte a qualcosa del genere, non la puoi applicare in maniera così automatica la norma, no? Che pure certamente prevede una penalizzazione, se ti ritiri è ovvio che devi essere punito. Mi sembra veramente una cosa proprio sintomo di scarsa intelligenza. Tu hai sentito prima Gagliani sulla chiusura della curva dell'Inter, perché in tanti dicono anche quelle norme continuano a essere applicate in maniera troppo rigida e stupida. Io non lo so, tu sai che su questa cosa ho una posizione particolare. No, io sono d'accordo con questo discorso. discorso. No, cioè, io sono abbastanza d'accordo. Ad esempio, è assurdo che si scambino cori per cori razzisti. Trovo però sempre un po' scivoloso che poi le società si mobilitino in difesa dei propri ultra in maniera così schierata. No, questo è un discorso scivoloso. Se mi dici che c'è un problema, ci può essere stato un problema di connivenza, di debolezza della società nei confronti di frange di una parte del mondo ultra, io posso essere d'accordo, anzi lo sono. Però se mi dici che questa applicazione enorme è un'applicazione che logica, non ci sto. Ma tu pensa, adesso prendi l'esempio della Roma o anche dell'Inter, insomma, settore ospiti fuori casa. Adesso un tifoso della Roma abbonato in Curva Sud, che con, adesso abbiamo l'essere del tifoso, sappiamo tutto, no? Quindi chi è andato e chi non è andato, ma perché deve pagare? Lui ha già pagato il biglietto della partita, ha già pagato l'abbonamento. Perché non deve andare allo? Perché non deve avere il diritto economico di una cosa che lui ha pagato quando poi non era neanche a Milano? Cioè, io posso capire che per estensione tu possa squalificare i 1700 che, grazie alla testa del tifoso, sai che potevano essere lì, perché ci può essere una presunzione di colpevolezza, che già è un abominio giuridico, però ci può essere una presunzione di colpevolezza. Tu eri fra quei 1700, potresti aver gridato, ammesso poi che il coro fosse realmente razzista, perché pare fosse un'altra cosa. Comunque, quello lo potrei anche capire, ma che chiudi un intero settore con 20.000 persone, 18.000 persone che a Milano non ci sono neanche andate, e come fai a sapere che erano in Curva Sud? Se quelli che hanno fischiato a San Siro, sempre ammesso e non concesso che abbiano fatto cose razziste, stavano in Tevere, se stavano in Monte Mario, se stavano in Tribuna d'Onore alle partite della Roma in casa, quindi... La verità è che abbiamo fatto un pasticcio, ma è un pasticcio, ma ne abbiamo già parlato, Pier. È nato quest'estate. 800 24 00 24. Proviamo poi a proiettarci sul derby, sì, magari evitando il discorso della curva chiusa. Tanto bisogna aspettare domani, avremo tempo. Traffico. Tutti convocati. Saluto Evaristo Beccalossi. Ciao Evaristo. Ciao, ciao. Come stai, Becca? Sono Pardo, tutto bene? Ciao, bene, bene. Scusate se insisto? Sì, sì. Non esco a Busto però, perché non si può uscire a Busto, ho sentito la notizia. Lo diciamo, scusate se insisto, sì. Perché è una cosa che per esempio a Roma non si sa, no? Perché è un prodotto abbastanza locale quello, sbaglio? Sì. C'era questa... Milano Inter la pero Gallarate. Arriva a malapena alla Brianza. Questo straordinario advert, questo straordinario, come dite voi italiani, spot pubblicitario con amico Beccalossi, che diceva: sono Evaristo, scusate se insisto. Per cui magari, che ne so, a Monopoli o a Castellammare di Stabia non sanno perché c'è questa cosa. Noi invece siamo internazionali, ci sentono noi ovunque, tutto, e quindi, sì, sì. E quindi dobbiamo ricordarlo. In pieno clima derby, Evaristo, o no? Ma non direi, dai diciamo la verità, di questo diciamo la verità. Non si presenta come gli altri derby, già il problema dei tifosi, la curva, le sì, ma non solo quello. La posizione di classifica di Milan e Inter, cioè di qualcun altro. Noi, io personalmente, non è che mi aspettassi di lottare per i primi tre posti, però insomma Mazzari quello che doveva fare lo sta facendo. Poi c'è da valutare se con qualche inserimento si può andare a attaccare la zona Champions League. Ma è un po' sfuggita di mano, aver visto la situazione nelle ultime settimane, dal punto di vista difensivo soprattutto. Cioè, a me sembra di vedere una squadra un po' distratta, un po' in difficoltà, un po' meno equilibrata, poco mazzarriana l'Inter delle ultime 3-4 partite, o no? Secondo me abbiamo fatto parecchi errori, però più che preoccupare c'è da rimettersi in corsa con un certo spirito. A me piaceva molto lo spirito fino a 3-4 domeniche fa, dove la squadra insomma vedevi che correva, lottava così. Nelle ultime domeniche proprio errori singoli che vanno a scapito del risultato. Però è anche vero che io sono uno di quelli che ha sempre valutato la mia squadra con un certo equilibrio, essendo io non mi aspettavo di essere lì e sperare di arrivare nei primi tre, quindi per me si sta facendo anche un buon lavoro. Sì, ti stupisce che cosa sta succedendo in queste settimane, in questo ultimo mese, perché poi l'Inter ha rallentato in questo ultimo mese. Scusa, ma guarda il centrocampo che giochiamo, cioè è un po' anomalo, due esterni che spingono, cambiarsi lì, centromediano metodista che gli anni passano un po' anche per lui. Ma tu Evaristo sei d'accordo che la prima mossa per rinforzare la squadra sia la cessione di Guarin? Ma beh, io qualche dubbio ce l'ho. No, io invece no, nel senso che Guarin è un ottimo giocatore, però non va inserito lì in mezzo al campo. Guarin deve giocare nel reparto avanzato. Se devo sacrificare Guarin per prendere magari un paio di giocatori di quelli tosti in mezzo al campo, io o Lavezzi è uno dei due, perché bisogna vedere anche se Milito torna o non torna, perché uno davanti e uno due in mezzo al campo, secondo me dobbiamo inserirli. Allora lì secondo me possiamo lottare per agguantare il terzo posto. Ma così c'è stata una crescita di giocatori. L'anno scorso c'erano dei giocatori che non potevano mettere piede a San Siro, invece quest'anno con Mazzari, Alvare, Jonathan e compagnia varia, insomma, stanno giocando titolari e stanno anche facendo bene. Insomma, resti fra gli ottimisti, quelli contenti. Oggi in redazione abbiamo fatto un test. Siccome io ti dico la verità, secondo me questo è un derby di cui, al di là del campanile, della voglia di vincere e superare l'avversario, in realtà frega poco a tutti a Milano, perché è uno dei derby, credo, più dimessi degli ultimi 20 anni. A me è venuto in mente Sponda Inter, il derby di Minaudo, che ovviamente per gli interisti rappresenta, caro Piero, un'icona, sì, il derby di Minaudo, ma stiamo parlando del periodo più buio, credo, dell'Inter degli ultimi 30 anni. A te, Becca, che cosa fa venire in mente? Questo niente di ti dico niente di particolare, ma sembra di snobbare, quando invece poi dopo alla fine il derby, insomma, va sempre vissuto in modo diverso. Però non riesco a agganciarmi a situazioni, per esempio io del Milan tutti sottovalutano, cioè a 9 o 10 giocatori il Milan, che loro sono molto più in ritardo di noi, secondo me, perché se tu vai a analizzare i singoli giocatori del Milan, dai Sharawi, Balotelli, Kakà, e vai a Montolivo che è nazionale, Abate che è nazionale, De Sciglio, cioè c'è un gruppo di giocatori che secondo me sono ottimi giocatori. Mentre nella mia squadra siamo partiti dall'anno zero, dall'anno scorso, abbiamo visto come siamo arrivati in classifica e siamo lì a sperare di agguantare il terzo posto. Quindi noi siamo, tra virgolette, andando abbastanza bene. Poi ti ripeto, secondo me per puntare al terzo posto la squadra va rinforzata, mentre il Milan è in ritardo di brutto per la qualità dei giocatori che secondo me ha. Intanto ti dico che da gennaio torna Milito, l'ha detto oggi, l'idea è guardare a quella data perché ancora un minimo di rischio c'è e nessuno vuole che io mi faccia allora male. Allora andiamo sui centrocampisti, rinforzando il centrocampo secondo me possiamo... Quindi non serve un attaccante? Possiamo puntare al terzo posto, no, perché c'hai Palacio, c'hai Milito, poi se vai a giocare con una punta... Credo che poi c'è Icardi, secondo me, che va recuperato. Posso farti una domanda lobbistica? Sì. Perché io, sai che insomma, io sono abbastanza amico di Cassano, anche se poi ci sono pure le volte che gioca male, per carità, e le volte che fa degli errori. Quindi no, io ce l'ho a fantacalcio, gioca benissimo Cassano. Quest'anno sta giocando bene, ma io questa domanda mi faccio, ma non lo rimpiangete? Nel senso che l'Inter ha un attaccante quest'anno. Milito si è fatto male. Belfodil, vabbè, è stato preso per chi Cassano. L'ha visto? Icardi. È semplice la risposta, dai, lo sai che Antonio secondo me andava tenuto, però avendo in casa uno come Kovacic era giusto puntare su di lui. Allora Cassano era una certezza, hai preferito darti a lui per far crescere Kovacic, invece potevano stare voi tutti due insieme. Non ha ancora dimostrato il potenziale che ha, perché poi alla fine bisogna guardare Kovacic in ritardo. Kovacic in realtà, però vuol dire Kovacic alla fine poteva fare il centrocampista, Cassano poteva fare l'attaccante. Non può fare il centrocampista Kovacic, gioca da metà campo in su. Il centrocampista non credo che non sia il suo ruolo. Becca, ti preoccupa più l'assenza di Alvarez o ti consola più l'assenza di Montolivo? Perché nel poco di qualità che c'è lì in mezzo, poi tra l'altro mancano anche due punti di riferimento importanti. Ma non mi preoccupa niente, perché è una partita che secondo me dovremmo vedere ancora dei gol, perché le due squadre in questo momento sono un po' spericolate, però non sì, non sono vado... un po' spensierate. Spensierate e spericolate anche, perché l'attimo che magari ti sembra di aver risolto i problemi, nascono nuovi problemi. Quando li hai risolti vai un po' bene, insomma un derby aperto a qualsiasi risultato. Quindi ci dai il pronostico? Dai che lo registriamo. Allora vincono loro 1-0 per l'Inter. Ecco, ma tu di che segno sei? Perché dipende, di che segno? Toricchio. Toro. Adesso andiamo a cercare qual è il giorno anche, che è nato anche nel segno del toro. Grazie Evar Becca, ragazzi. Seguitelo su Twitter, è una tweet star anche lui. Chiocciola Evar Becca. No Pier, non posso perché mi è caduto il cellulare, si può dire nel bagno, e c'ho tutto, non so, adesso devo rimetterlo a posto. Vabbè, e... ma il profilo Twitter non è che muore perché va il cellulare nel fango, cioè, ma poi... non so come si fa no. Comunque adesso mi organizzo. Ma il tuo profilo è vivo e lotta insieme a noi nonostante il fango. Ci scrivono che domenica sera c'erano solo 12 abbonati alla curva nord dell'Inter a Napoli e si dice chiudiamo la curva per 12 persone. Non so se sia vera questa stima, però è il punto che dicevamo prima, cioè che ne sappiamo di che settore hanno l'abbonamento e se ce l'hanno quelli che hanno eventualmente fatto i cori. Grazie Evaristo. Ciao, un abbraccio, ciao, buon Natale a tutti. Noi ciao. Non ne sappiamo niente, grazie Evaristo, ma poi te ne racconto anche un'altra. Notiziario. Non scrivo niente particolare, solo c'è gente che scrive di tutto. Io non so se avete visto, ho meno di 1000 tweet, non scrivo niente particolare. Un buongiorno, una buona sera e un po' di foto, basta. Tutti convocati. Li abbiamo scatenati, caro Pier. Allora, del Toro. Sì. Non del Toro nel senso granata. Benissimo. Poi chi, scusa? No, era un momento molto culturale, vai. Del Toro sono Karl Marx, Hitler, pensa, poi ci dice un amico al 349-238-6666, Cromwell, Montanelli, Zenga, Elisabetta II, Cruyff e altri carterini, ma pure gente quieta come Barzagli, Raimondo Vianello, Baresi, Cluney, Fiorello. Ecco, questo spiega proprio, posso dire la demenzialità dell'astrologia, perché un segno zodiacale che contiene in sé Hitler e Raimondo Vianello, capisci? Qual è la caratteristica del Toro? Dipende. Comunque era Benicio del Toro, ho fatto la battuta. Non te l'avevo capito. C'è anche Zeman, c'è anche Massimo Moratti, c'è anche Diego Battaglione. Sì, c'è anche Daniele da Torino, buon pomeriggio. Daniele, io sono da Bergamo. Sì, Daniele da Bergamo. Sì, anche riguardo ascendente, ascendente. Daniele da Bergamo, sì. Ascendente cosa? Io sono leone, discendente leoni, dicono. Va bene, allora perfetto, quindi vivrà una grande domenica, perché domenica è il giorno. Sì. È come Gagliani e Barbara Berlusconi. Sì, sì, prego. Sì. Ovviamente dicevo riguardo la Coppa Italia, il fatto che c'erano tutti i tifosi dell'Avellino, sì, a Torino. Mi chiedevo voi come la pensaste, come sarebbe la Coppa Italia se invece la squadra più debole giocasse sempre in casa con la più grande in un turno unico, non la renderebbe più interessante? Devo dire la verità? Sarebbe sì, una palla lo stesso, ma credo l'abbiano anche già fatto negli anni scorsi, Pier. Sì, sì, ma insomma, attuare la Coppa Italia... Sì. No, la Coppa Italia è una delle manifestazioni sulle quali ci sono stati più esperimenti di ingegneria genetica e di variazioni della storia per cercare di renderla affascinante. In realtà lo è, insomma, alcune cose sono migliorate negli ultimi anni, nel senso che comunque da un certo punto in avanti diventa bellissima, ci sono grandi partite, la finale in partita unica è una figata, posso dirlo. Sì, ma quando smettono di snobbarla diventa bella, prima che sì, però insomma adesso diciamo che secondo me non è male in questo momento, nel senso che è abbastanza blindata per le grandi in modo da consentire. Questo un po' di fascino glielo toglie, e però un po' rende anche. Dobbiamo capire che vogliamo fare nella vita. Nel senso, in Inghilterra hanno la coppa senza teste di serie, per cui tu hai magari lo Scunthorpe che arriva in semifinale o nei quarti, o il Reading, e quindi hai magari delle. Non hai teste di serie, quindi tu puoi avere Arsenal, Manchester United dai sedicesimi di finale, per capirci. In Italia invece c'è un meccanismo blindatissimo per proteggere le grandi, che fa sì che chiaramente ci siano meno favole, meno sorprese. E però ha anche una qualità dai quarti di finale in poi bella, perché insomma, non è brutto vedere, non so, Milan-Inter semifinale di Coppa Italia o cose del genere. Quindi... tra l'altro quest'anno già dai quarti, perché potrebbe esserci, sì, Roma-Juve, sì, potrebbe, esatto, esserci Milan-Inter. Però insomma è tutto blindatissimo. Io quello che farei, l'ho detto qualche giorno fa e lo ribadisco, è quando ci sono, farei giocare le partite almeno fino a un certo punto della competizione in casa della squadra più debole, perché è stato bellissimo la sciarpata dei tifosi dell'Avellino a Torino, sicuramente è stato bellissimo l'esodo dei tifosi del Trapani a Milano contro l'Inter. Ma voi pensate che cosa sarebbe stato Trapani-Inter o Avellino-Juve? Sicuramente una cosa ancora più bella, ancora più emozionante. Filippo Davarese. Filippo. Buongiorno, grazie di essere convocato. Grazie a lei. Senz'altro. Volevo dire che sono d'accordo con la chiusura delle curve, perché dovevo smettere una volta per tutti. Ci sono delle regole certe. allenare, fare dei cori razzisti o antiterritoriali, quella che è una curva chiusa, perché le società per con i venti, con queste infrangi di voi, se gli vai a toccare sui soldi, se gli chiudi la curva due, tre, quattro volte, vuoi vedere che le società prenderanno provvedimenti. E anche la gente che è lì di fianco, se vogliono continuare a vedere la partita, quei 12, oggi ho letto sulla gazzetta che erano 12. Sì, 12. Ma se 12 gridano, gli altri 2000 si mettono invece a applaudire, quei 12 saranno zitti. Se gli altri sicuramente non saranno 12, ma saranno molti di più. Sì, sì, ma gli altri 2000 allo stadio ci vanno, perché magari sono di altri settori. Cioè io, quello... Io sono assolutamente spietato nella lotta al razzismo, lo dico senza se e senza mai. Il razzismo è una piaga, è una cosa per la quale troppa gente nel mondo ha sofferto e deve essere curata con tutta la severità del caso. Ma qui è semplicemente un'applicazione stupida di una norma, diciamo le cose come stanno, nel senso che se Capuano dice una parolaccia a Piantanida, non è che devo mi squalifichi a me. Cioè qui ci sono delle persone in trasferta che hanno forse, nel caso della Roma e sicuramente da quello che si è capito nel caso dell'Inter, fatto dei cori discriminatori che non ecco, avevano fatto. Queste persone qui o le andiamo, visto che c'è la famosa tessera del tifoso, ennesimo fallimento, quindi abbiamo proprio i nomi di quelli che erano fisicamente nel settore ospiti, o facciamo la squalifica a quelli. E già è un discorso accettabile, ripeto. Poi certo, magari ci scappa comunque l'innocente che era lì nel settore, però almeno era presente allo stadio. Ma che tu invece chiudi arbitrariamente un settore decidendo che era quello, e poi scopri che c'era... Tra l'altro prima Giovanni mi diceva che c'è un'altra cosa, sì, tecnica, c'è, no? C'è una cosa tecnica surreale, per cui al derby i tifosi dell'Inter, tanti abbonati al secondo anello blu, che è quello che sarà occupato dagli ultra del Milan, non essendo presente in prelazione, non potranno andare perché hanno preso il biglietto del secondo anello verde. Quindi saranno squalificati i tifosi che non sono nemmeno tecnicamente curva nord, abbonati alla curva nord. Ma io credo che domani parleremo di qualcosa. Gagliani lo ha detto: un rinvio della sanzione, una sospensione. Poi il calcio italiano è capace di trovare gli anticorpi a certe follie. Emanuele dalla provincia di Ancona. Salve, Emanuele. Grazie di essere convocato. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Niente, volevo parlare della situazione, brutta situazione che si è trovato il grande Brindelli, ma il problema non è della giustizia sportiva, sì, una brutta figuraccia che ha fatto, ma il problema è questi genitori che stanno in tribuna, che sono la nostra nuova società di questo paese. Cioè lì ci dovremmo interrogare su tutto, cioè perché questi... Cioè, non si può. No, anche non si può, basta che non ripartiamo però dal discorso che bisogna partire dalle scuole, che è tutto vero, tutto giusto, però magari si potrebbe anche disegnare un percorso per cui in questi casi una partita si sospende senza che sia il gesto eroico isolato del Birindelli di turno. Non è il primo, tra l'altro, perché io ricordo nei mesi scorsi altre storie simili che ogni tanto si leggono sui giornali, Pier. Sì, ma insomma, quello che ha fatto Birindelli è un gesto che meriterebbe un premio, non una punizione. E sono d'accordo, anche se poi si rischia così il qualunquismo nel dire che il problema sono sicuramente le tribune, sono i genitori, sono insomma il livello di aggressività, di conflittualità, di incazzatura permanente che c'è nel mondo, ma insomma è un discorso che diventa talmente vago da essere retorico, quindi non lo facciamo, l'abbiamo già fatto, insomma, però è vero. Basta andare, l'abbiamo fatto anche come Tiki Taka un'inchiesta un paio di settimane fa, andando a vedere la partita, insomma, ci sono già i genitori che pensano ai figli quando avranno un procuratore, se ce la faranno nella carriera, ci sono quelli che se la prendono con l'allenatore perché secondo loro non lo fanno giocare nella posizione migliore, quelli a cui sta sulle palle il compagno di squadra perché non gli passa la palla, insomma. Tu hai letto l'autobiografia di Pirlo che racconta in un capitolo. Che noi, i genitori invitavano gli amichetti a non passargli la palla perché Pirlo era troppo bravo, sì, e aveva 10 anni. E non mi sorprende, insomma, sta cosa. Giocava nel Bresciano. Daniele da Torino. Daniele, buon pomeriggio. Innanzitutto volevo dire, appunto, volevo dare la mia solidarietà a Birindelli, dire che effettivamente il problema all'origine è il comportamento di noi genitori. In realtà io avevo chiamato per parlare di basket. Sì, prego. Perché domenica io sono andato con mio figlio qua a Torino a Parola a Ruffini, c'era la partita di Lega Gold PMS Casale. Che ha fatto il giro del mondo su internet. Sì, esatto, c'è stata quella conclusione stupenda con quel canestro di Mancinelli, ma mi hanno colpito altre due cose, cioè che la PMS si sforza di attirare i bambini e le famiglie al palazzetto, quindi organizza delle cose per i bambini, tipo domenica i bambini portavano una palla per decorare un albero di Natale, gli veniva regalata la maglietta, poi ovviamente assistevano. Sì, insomma, si può fare anche senza partita. Approfittare di una curva chiusa per razzismo, questo sì, può sì, essere sì. Il messaggio, ma lo fanno anche in tanti. Tra l'altro, Pierre, la Roma ad esempio non chiederà di mettere i bambini nella curva sud eventualmente squalificata, perché dice: noi abbiamo già una politica con un settore famiglia, sì, e sì. Non ci va di, secondo me, tra le righe dicono, strumentalizzare un'emergenza, sì, sì, no, lo dicono per assolutamente, a fare lo dicono assolutamente di tra le righe, ma è così, insomma, il punto è, ma è un punto dell'Italia, è non fare le cose soltanto quando c'è l'emergenza, non soltanto quando c'è la vertigine mediatica di qualcosa che ti colpisce, per cui tu sei suggestionato e reagisci. Il problema dell'Italia è fare le cose giorno dopo giorno, è un problema proprio della cultura degli italiani, no? Che poi in qualche modo si esprime anche nelle caratteristiche delle nostre squadre, che spesso fanno delle grandi imprese quando sono in difficoltà, quando sono con le spalle al muro, e poi invece faticano nelle cose più banali. E la banalità, la quotidianità delle cose, è lì che si combatte il razzismo, è lì che si fanno le cose, non quando c'è un attimo di panico, oppure appunto la suggestione mediatica. In tanti ci dicono che la Coppa Italia è il modo per renderla più viva e dare un posto in Champions League, è una cosa giusta, ma che non si fa, perché evidentemente non lo farà mai Platini. Esatto. Enrico da Milano, la Lega potrebbe farlo. Salve, prego. Buongiorno. Ciao. No, niente, io volevo ritornare sull'argomento della curva, sì, nord, rapido, perché siamo in chiusura. Sì, no, volevo semplicemente dire che il giudice Tosel, non so cosa intenda fare, che segnale intenda dare. Io dico solo che, ed è venuto fuori anche sul giornale, che domenica sera, oltre alla curva dell'Inter, poi dallo stadio, quindi si parla di 2.000 o 3.000, sì, ragazzi, ci sarà anche la curva del Milan per solidarietà. Sì, ma a me queste cose non piacciono, io ti fermo Enrico, io te lo dico, queste solidarietà tra ultras a me non piacciono, io preferisco dire che forse questa volta Tosel ha sbagliato, e chi ha scritto i referti per Tosel, e poi fermiamoci qui, perché altrimenti si entra, secondo me, in una parte grigia e scivolosa. Grazie comunque, Pier, abbiamo finito. Domani. Hasta luego. Hasta luego. Hasta domani. Ciao a tutti.